disposizione, fa anche se limiti, no? Per cui è una bella attività, è un bel passatempo. Sì, almeno sei di lì a prendere, a avere il modo di passare i sabati e le domeniche, poi hai anche la soddisfazione di prendere e dire questo l'ho fatto io. Guarda, se mi continuo a fare dettagli così, alla grande, poi, ripeto, le presenze si consumeranno e si cambieranno. Però per logistica va bene così. Proprio oggi io mi sono fatto addirittura una squadratrice, diciamo, chiamiamola squadratrice, che possa squadrare pannelli larghi 60 cm, a squadra perfetta. Proprio oggi mi sono perfezionato l'applicazione che ho fatto, e sai cosa sto usando? Anziché usare la classica macchinetta da banco, addirittura sto usando la smerigliatrice, quella per il ferro, diciamo, no? Al posto del disco per il ferro ci ho messo il disco da legno, naturalmente con tutte le precauzioni più possibili, più immaginabili, e devo dirti che mi fa un taglio che è veramente perfetto. Proprio oggi non sapevo cosa fare, mi sono fatto questo lavoretto, anche se a me non è che mi serve, perché io ho tutta l'attrezzatura ancora, io ho tutta una falegnameria ancora tutta ben attrezzata, volendo potrei andare in magazzino e fare i lavori, ma essendo a casa, sai, mi posso anche divertire in mansarda con un certo tipo di lavorazioni che posso fare anche a casa, per dire. Tanto per darti un'idea, io ultimamente mi sono fatto anche una porta, qui in mansarda mi sono fatto una porta proprio per la mansarda, che non c'era, perché tutto il caldo se ne andava su e giù rimaneva un po' più freddo. Allora mi sono fatto la porta, l'ho chiusa e tranquillamente l'ho fatta tutta qui, senza la minima attrezzatura, ma ripeto, io il mestiere, io ho 60 anni di esperienza in falegnameria. No, vabbè, ma io vi faccio le menso, vi faccio queste cose qua, non è che faccio questi grandi decimi lavori, io sono, diciamo, neanche un ovellino, peggio un ovellino, però le poche cose che ho fatto, il legno, per esempio io ho costruito delle casse acustiche, il legno, sono uscite benissimo, guarda, ti mando delle foto, sono uscite benissimo, in genere si comprano le maniglie fatte in ferro, io me le ho costruite dal legno, ti mando delle foto anche, e niente, faccio delle cosettine così. Adesso mi piacerebbe fare qualche mobiletto o qualcosa, visto che ho provato questo pantografo, e sperimentare queste presette, perché è bello da usare quel pantografo, sembra così, però è bello perché devi essere preciso, poi a mano libera, cioè quando fai uno smusso a mano libera, hai tutta la soddisfazione. Sì, beh certo, ci sono tanti tipi di pannelli già confezionati nei negozi, da Bricome ad esempio, di abete, oppure che so io di faggio, oppure di frassino, ma parlo di Masello, non sto parlando di pannelli melaminici, no, quelli insomma, anche perché quelli non li puoi passare, non le presenti, sono già finite, sono già bordate e tutto, per cui no, e poi quelli non ti servono, al limite quelli ti possono servire per la cassa, ma poi magari se devi fare un mobiletto, perché so io, tanto per fare un esempio, che so io, un tavolinetto per metterci la stazione, ti fai il tavolino, poi lo sportello te lo fai come ti pare, ti piace, te lo fai, prima ti fai tutta la cassa, ci sono tutti gli agganci che li vendono in ferramenta, non devi fare niente altro, non hai bisogno nemmeno di utilizzare i penne di legno come generalmente si usano quando si usa quel genere di lavoro, ci sono però degli adattatori per poter assemblare il mobile, cioè la cassa, intendo, poi il mobiletto, la parte frontale dove c'è magari, che so io, il cassetto o la vostra del cassetto, oppure, che so io, l'antina che ci va applicata, e quella la puoi lavorare col pantografo, perché quella la devi fare sempre in massello, no? Sì, infatti. adesso io magari queste due settimane sono un po' impegnato, però poi inizierò a farmelo, come detto, vedo un po' qualche cosa come lo vorrebbe, non una cosa mastodontica, però un mobiletto magari con tre cazzetti e uno sportellino, o potrei anche farlo. Farò tagliare i piedi, però poi me li modello io. E va bene, dai, piano piano ci diamo questa esperienza. Se poi vuoi avere ancora facilità di lavoro, puoi fare anche così, anche gli sportelli li vendono già fatti, se per quello tu vai tu dove vendono materiale, legnami eccetera, vendono anche gli sportelli già fatti, confezionati, ti compri quella misura che ti serve, anziché fare per dire lo sportello alla misura del mobile che hai fatto, fai il mobile alla misura dello sportello che ti compri, e dunque non c'è problema. Uno oggi ha mille possibilità, ci sono sportelli di tipo pannellato, ci sono sportelli a tipo persianetta, insomma ci sono tante varietà di cose che uno basta avere un minimo di inventiva, tu già so che sia una persona abbastanza preparata mentalmente soprattutto per queste cose, e allora ti puoi adattare, ma al limite se proprio non vuoi avere problemi di finitura eccetera, devi solo assemblare, Sì, no, li ho visti già fatti, no, ma io me li voglio fare proprio da zero, ma proprio incavati da me, proprio ho comprato il pannello, messo uno sopra l'altro, incollato e fatto proprio da me. È una soddisfazione che voglio togliere, almeno dico questo, quel mobiletto me l'ho fatto io, anche se piccolo, però me l'ho fatto io. Va bene Giulio, io adesso devo prendere, devo andare a vedere un lavoro, quindi devo chiudere la trasmissione perché tutti i clienti escono da lavoro alle 1:15, quindi devo andare a vedere questa cosa qua per domani, che molto probabilmente è una cosa fattibile, quindi domani riuscirò a fare la mezza giornata. Se è sabato però bisogna farlo e niente, mi ha fatto piacere sentirti come sempre, piacere, grazie di tutti i consigli che mi dai, quando lo inizio ti manderò delle foto in progressione in progressione del lavoro, dai, inizia. Lavoro in stato di avanzamento. Sì, Gabi, certo che sì, perché no, ci piace riesci a fare le cose, altro che uno basta che si applichi un attimino e faccia le cose piano piano, che non si stanchi, se ci fa, se fa un errore non è un problema, no, nessuno ti sgrida e lo rifai, insomma, diciamo che hai tutte le possibilità e soprattutto il tempo quando si tratta di fare lavori gruppi. Quello che conta, la pazienza, soprattutto la pazienza, e vedrai che poi alla fine riesci nel tuo intento, no? Non c'è problema. Va bene, Gabi, dai, io ti lascio andare, dai, se devi andare per questione di lavoro, io ti ringrazio per le quattro chiacchiere, è sempre un piacere ascoltarti, alla fin fine non so quando ci risentiremo, ad ogni modo mi fa sempre piacere ascoltarti. Ciao Gabino, salutoni a te, buonanotte e anche buona cena, non so se la fai adesso o se la fai dopo che rientri dal lavoro, ci sentiamo alle prossime, riprendi pure Gabino, ascolta il finale e anch'io chiudo allora. No, dopo farò la cena Giulio, adesso è troppo presto, dopo farò la cena, grazie Giulio di tutto, della tua gentilezza e dei tuoi consigli e dei tuoi saggi consigli, va bene, ciao Giulio, buonanotte e buon tutto, a risentirci a più presto. Ok, ciao di nuovo, buonanotte anche a te, grazie ancora per le quattro chiacchiere, ciao. Ciao Giulio, buonanotte. Hola, CQ10, attento 10, c'è qualcuno? Attenzione canale 10. CQ10, attenzione canale 10. Hola. attenzione al canale 10. Ciao Roberto, solo per salutarti, dai, stiamo chiudendo, ero sull'altro canale, ci sentiamo alle prossime, ciao Roberto, alle prossime, dai, devo chiudere, ciao ciao. Ciao Giuliano, avevo fatto una chiamata così per se c'è qualcuno, tanto per sentire qualcuno, vedo un po' che non sentivo. Ciao Giu, buon tutto, buon fine settimana. Ciao ciao, Roberto, avrei necessità veramente di portarti la macchina per incollarmi con un po' di massi, c'è quell'affare che c'è sul tituccio della C3, quell'affare di gomma che si era rotta, sono andato a comprarlo ma costa un lucchio, ma chi me lo fa fare a comprare? Quando ce l'ho intero basta incollarla, anche se non c'è più l'aggancio suo, ma basta incollarla e va bene lo stesso, non c'è problema. Volevo, uno di questi giorni magari mi farò una scappatina, se hai 5 minuti di tempo metti un po' di massi, cioè, e ciccia, ok? Quando vuoi, giuro, sai che per te non ci sono problemi. Quando vuoi, naturalmente è una giornata che non piove, vieni, te lo mettiamo un pezzo di nastro, lo tieni qualche ora, una decina di ore e bastano, perché quel mazzo c'è poliuretano e componente, però non si stancherà più. Ok, sì, va bene, ci sentiamo, dai, mi dispiace lasciarti, ma mi hanno già chiamato da poc'anzi, da 5 minuti fa, e infatti stavo scendendo, ero sull'altro canale, ero, stavo facendo quattro chiacchiere con Tore. Ci sentiamo alle prossime, ciao ancora Roberto, alle prossime, dai, sempre un piacere ascoltarti, ciao Roberto, ciao. Ciao Giulio, stammi bene, ciao ciao, io faccio un'altra chiamata, se no mi sposto da altre parti. Attenzione canale 10, se c'è qualcuno. Hola, attenzione 10, CQ10, c'è qualcuno? Attento 10. Canale 10, canale 10, Brecco. CQ10, c'è qualcuno? Sì, avanti. Roberto, buonasera. Ciao Roberto, Gianni. Gianni? K. Gianni chi? Non mi riconosci. Cavolo, non sei doppio room? Sì, sono doppio room, sì. Ma che c'è questa voce già? Come ce l'ho qua? Boh, che strano. Sembra un'altra persona, infatti mi stavano venendo dei dubbi. Adesso ascoltandoti meglio, sì, però pensavo qualche altro Gianni, ho detto, buh. No, questo qua praticamente è un microfono nuovo che ho acquistato da poco, l'ultimo che ho acquistato, dai, quello della Mibra. Ma non è quello dell'altra volta già. Questo qui è quello che c'ha l'eco, quello che ho pagato 9,90 con lo sconto. Osservavo che ha avuto un abbassamento di voce, sembra un'altra voce, non mi sembri tu. È probabile, perché ho portato il cane, magari ho preso un po' d'aria di freddo. Sembri molto più giovane, ti sei ringiovanito, ti sei già. Io sono giovane dentro. Quello sì, tutti quanti, almeno speriamo di esserlo, ci proviamo. Allora va bene, la modalità è bella, pulita, chiara, perfetta, però sembrava un'altra voce, detto, rispetto alla tua. Hai visto che anche Maurizio Costanzo se n'è andato? Mi dispiace, un grande della televisione, del giornalismo, della radio, di tutto. Uno dei massimi, diciamo, massima espressione della radio e della televisione, in assoluto, insieme a Mike Buongiorno, Corrado, sono quelle persone che hanno creato la televisione e la radio. E hanno creato anche posti di lavoro a molta gente. Soprattutto l'ha lanciata lui a Mediaset. E le canzoni ha fatto pure. Ma guarda, quel programma Costanzo Show, ma io lo seguivo spesso, era una bella cosa, bei personaggi, molta gente che è andata da lui, si è fatta conoscere, è diventata famosa. Stavo aspettando se trova Gavino, invece non si è sentito. Infatti ho provato a chiamare molte volte, è capitato che rispondeva verso le 9 lui dopo che finisce di mangiare, infatti entra, magari entrerà più tardi, dai. Sono sempre belle chiacchierate, ci facciamo con Gavino, poi iniziamo a parlare e si fa tardi, cioè in un attimo, si passa velocissimo il tempo. Idem come sopra, eh? Anche io vi faccio delle belle chiacchierate, dai. già è piacevole parlare con persone tranquille. Assolutamente, è una bella persona, dai. Non la conosco di persona, ha fatto anche un regalo, tra parentesi, forse ha fatto una buona impressione, tramite Claudio, mi ha detto, se ti servono te li do io radiali, e quella è stata una bella soddisfazione da parte mia. Per la mandato i radiali dalla Mantova, Nuvi, ma è usato. E per dire, non ci conosciamo le persone, ci siamo scambiati il numero di telefono, su WhatsApp ogni tanto ci mandiamo qualche messaggio, ma è una bella persona. No, io lo conosco anche in verticale a Gavino, addirittura l'ho convinto io a entrare in frequenza. No, ma poi parliamo di argomenti molto, come si chiama? A me fa piacere parlare, magari a qualcuno non ne può fregare di meno, tipo wifi, di antenne, di radio, eccetera, eccetera. Sempre belli argomenti abbiamo da fare. Non è la solita discorso di cosa hai mangiato, di cosa c'era lì a Platamona, eccetera. Sono argomenti, diciamo, tecnici, è una persona preparata nel suo campo, per cui confrontarsi e magari imparare qualcosa è sempre interessante. Vabbè sì, e lui è in quel campo lì, fa quel lavoro lì qui. E ma stasera era stanco, mi ha detto, era se si addormentava sul divano ha detto che non entrava, ma probabilmente è successo. Si è acceso poi, guarda, 3/4 d'ora fa, prima di andare a mangiare, stava salutando Giulio, ho fatto CQ10, ha detto vabbè, sono andando via che mi hanno chiamato a mangiare, erano le 8:30, 8:10, più o meno così. E io ho attaccato verso le 7:30 perché stavo andando fuori, ho attaccato e non c'era nessuno, come l'ho attaccata l'antenna l'ho tolta. No, era anche, sto facendo qualche diplomino, ho fatto qualche punteggio così, ho fatto 5 o 6 di diplomi stavo facendo. Sicuramente oggi c'era il contest del Presidente della Repubblica. Contest, là guarda, diciamo il diploma, lo sto facendo anche quello. Senti, i diplomi radio, tu, per curiosità, scrivi a diplomiradio.it e poi guardati le classifiche. Se sei il mio nominativo, cercale, ti guardi in che posizione sono. Non per vantarmi, ma in Sardegna un paio di volte solo mi hanno battuto. E non lo faccio per dire, per fare punteggio così, a tempo perso, ma tutta la primavera scorsa, quando ho iniziato a farle, ne avrò fatto una 60 di questi diplomi, sempre tra i primi. Ma molta gente non ci appentava molto la Salino perché aveva il tempo e stava attaccato e si faceva tutti, c'era anche quello delle ferrovie, ne aveva tanti attaccati al muro. Sì, no, interessante, ma ti ripeto, io lo facevo quando ci vado a officina, sul tardi, un'oretta, tanto non è che puoi fare 200 collegamenti, ci sono tutte le bande, te lo fai per dire in 40, 80, 20, poi molte volte ci sono le stazioni Giulie che ti danno punti in più, molte volte ci sono due o tre operatori e prendi qualche punto in più, adesso c'era quello di Itiri, sono arrivato a fare 12esimo su 1000 e passa, ma ce ne ho tanti importanti dove a livello mondiale c'era tutto il mondo che l'ha fatto, di lì ho fatto discrete posizioni, dai, e sono soddisfazioni per essere un principiante. Vabbè, certo che sono soddisfazioni, Robè, se uno piace è giusto che le faccia e si metta d'impegno, dai, poi magari ti stufano a furia di farle, ti annulli. Ma stasera c'era questo contest, non so se era un contest o forse era come dici tu per i diplomi, e niente, stava partecipando un po' di gente, lo stavo ascoltando, dai. Arrivavano tutti molto bene, con l'antenna del baracchino e stavo ascoltando. Non è il contest è un'altra cosa, sono dei award, diplomi, c'era il diploma del Carnevale Viareggio, c'era il diploma di uno spediti test, coso della città dell'amore, Terni città dell'amore, 4 o 5 ce n'erano oggi di questi diplomi. Ti è presente, da quando lo sto facendo io mi hanno dato più di 700 QSL, fatto da, diciamo, quando è iniziato da maggio, sono arrivato più di 705 la frase. Ma tu i contest, lo sai io da quando li ascolto, Robè, tu non eri manco in frequenza quando li ascoltavo io, li ho già ascoltati 1000 volte, danno il segnale e basta, tutto lì, e dopo chiudono subito il battente, ti fanno andare avanti l'altro, non è che stanno a fare queste cose. Assolutamente, devi più che fai e va a punteggio, se ne fai 5.000, 3.000 nell'arco della giornata e ti danno punteggio, c'è una classifica, ma no, il contest è interessante quando devi fare country, per dire nuove nazioni, nuove isole, cose del genere, di lì c'è tutto il mondo che chiama, ci vuole anche qualcosa di antenna, infatti non è che io ne abbia molti, ne avrò un centinaio di country, su 340 neanche un terzo ne ho, per dire, però adesso come metto l'altra antenna con la grossa che inizia il bel tempo, piazzo la direttiva, giri e ti fai con la zona lì perché c'ho un sacco di roba da fare, per dire, l'Europa l'ho fatta tutta quanta, però in Africa zero, pochissimi country ho fatto per dire l'Australia che è più lontana e più difficile, però in Africa con le antenne mie non è che posso andare più di tanto, probabilmente la posizione, non lo so, per cui quando ci sono questi stati piccolini, piccole nazioni, e di lì ci sono pochi operatori e è un po' più difficile. Vabbè, ma c'è un programma Robert, dove tu sai dove c'è praticamente la propagazione, ti fa vedere tutta la cartina, ti segnala tutte le posizioni dove c'è gente che sta modulando. Assolutamente no, io ce l'ho, il cluster si chiama, e ti dà tutto in quel momento lì, ci sono tutte le bande, chi c'è collegato, il cluster lo uso soprattutto per i diplomi, prima andavo a cercare e perdi un po' di tempo, senti, mettere adesso cerchi il cluster, ci sono tutti l'elenco dei diplomi, tu figli vai, metti la frequenza, per quello io faccio anche tanti punti per quel motivo lì, molti lo fanno così per divertimento, fanno 3 o 4 collegamenti. Mentre io cerco nei cluster, vado e tiro, è così per i canti, se c'è qualche stazione lontana, strana, guardi di lì, dice in questo momento in tempo reale ti dà la frequenza, vai, tac, parli, ti confermano e te lo segni come nuovo canti. Quindi ti sta appassionando la frequenza radioamatoriale? No, è divertente perché hai diverse opportunità, tante cose da fare, per dire 27 è bella, là. Però, scusa là, ho mangiato un grissino, mi stava andando di trave. 27, ho fatto anche qualche collegamento di lì importante, un nominativo, che di lì ho preso il nominativo tramite quelli Whisky Mike, quello che mi ha fatto fare Muros, Claudio di Muros. E di lì è divertente, te ne vai in banda laterale, con l'antenna che ho, già riesci a fare qualcosa di più. Infatti l'altro giorno c'era il, che cacchio era, Emirati Arabi, poi c'era Macedonia, Stati Uniti, oggi c'era una propagazione da paura, c'erano gli americani 9:30 poco fa stavano arrivando, in AM però, non in banda laterale. Già li ho sentiti, anche sul canale 10 c'erano stasera. Ma che cosa cambia se tu ti iscrivi in questo gruppo oppure se lo fai liberamente? Non capisco cosa cambia. Allora, la cosa bella, se ti iscrivi in un gruppo, dai il nome, il nominativo in questo caso, il mio è 165 Whisky Mike 105. Con questo nominativo poi ti iscrivi a un, si chiama X Cluster, adesso non mi ricordo come si chiama, una cosa del genere. Come tu parli, automaticamente quando ti ricevono ti danno la conferma e ti arriva direttamente la QSL in diretta, in tempo reale. Ed è bello per quello, come facciamo con i diplomi. Il diploma, la bolletta dei diplomi è quello, ti mandano la QSL in tempo reale, digitale, via mail, c'è la tua email personale, tac. Come dai il collegamento subito ti mandano la QSL. E sono bellissime, le vedete, sono delle cartoline, per dire c'era quella delle cose spaziali, della stazione spaziale, degli attori italiani, adesso c'è il Presidente della Repubblica, ci sono, ieri o avantieri c'era Pertini, prima c'era Ciampi, sono tutti diplomini e ti mandano, sono una diversa dall'altra, ti ripeto ne ho 702 o 703 di queste, una diversa dall'altra. A me piacevano quelle che mandavano prima 27, le QSL, di tutte e di più ti mandavano dalla Svizzera, sotto bicchieri, soldi, di tutte e di più, monete, adesivi, credo di bussoli, QSL personale, ti facevano una busta tutta piena di roba. io ti mandavo quello in sughero, quelle, la Sardegna più la mia questione personale. Poi la Sardegna è molto ambita, la Sardegna è un country come può essere una nazione, perché è distante 200 km dalla terraferma, parliamo dal resto del continente, per cui tu quando chiami in Sardegna dici S0, non sai come si illuminano gli occhi alla gente, non dico in Europa, parliamo di fuori, è come che tu stai collegando le isole Hawaii, le Seychelles, cose del genere, sono dei posti, dei country molto ambiti, soprattutto per i paesi extraeuropei, per dire paesi l'America Latina, Australia, non parliamo dell'Australia, se ti sentono gli australiani o neozelandesi, guai, e per loro è come che tu ti fai le isole Fiji, Cook Island o cose del genere, perché è talmente lontano il country, e loro è un prestigio, sono una rarità, noi non siamo neanche tanti in Sardegna come abitanti, per cui radioamatori, ho sentito che ce ne sono 300 in Sardegna, radioamatori parliamo operativi, forse anche meno, perché più o meno ci conosciamo tutti, qualcuno ce l'abbiamo collegato, ieri proprio si è parlato, siamo operativi intorno ai 300, e fate il conto, quando uno dichiama l'Australia ne becca uno, è già difficile parlarci per la distanza, e ne becca uno, per loro è come effetto un terno all'otto, al totocaccia, al supereroe. Qua abbiamo Marco Scurco che è number one, collega. Marco è uno dei primissimi, per non dire il primissimo, fatto di un certo livello, ce ne sono prima di lui radioamatori, però lui nel suo coso è stato un pochettino innovativo per certe cose e sta continuando soprattutto sui satelliti. Sì, sì, sì. Un po' di tutto fa Marco. Dai. Dove mette le mani oro? Assolutamente, poi Marco è un perfezionista, uno di quelli che cerca sempre di trovare la giusta cosa, il massimo di quello che si può fare con l'antenna, di quell'apparato, cavi e tutto. Appagato. Vabbè, ce ne sono tanti altri radioamatori, ma per dire c'è anche Walter che parla le lingue, parla anche il russo, io l'ho sentito parlare il russo a Walter. Sì, ma poi quando inizi a fare qualche collegamento, io l'altro giorno, qualche volta rispondi in russo, dici grazie, cosa, qualche parolina esce a dire, l'altro giorno in albanese, qualche parola so. Quando inizi poi a ascoltare, molte parole poi ti vengono, tanto non è che devi dire cose importanti, non è che devi fare una consueo, dici grazie, il saluto, e gli parli del segnale, puoi dire, ma diciamo normalmente si parla in inglese. Ci si arrangia sempre, però ci sono radioamatori che parlano tre lingue in modo impeccabile, come l'italiano, come madrelingua. Cioè, proprio ieri stavo parlando di un amico radioamatore giovane, non è grande di età, però cavolo, quello è bravo in tutti i livelli. E Marco di più in furia, però questo è CV doppio, i sistemi digitali, a parte che è il suo campo, il campo dell'informatica, ma è veramente un grandissimo radioamatore, ha fatto una marea di country, pur essendo di nuova leva, non è di quelli vecchi tipo Walter e tipo Marco. Io conosco un altro radioamatore, questo il padre era radioamatore dal 1948, mi sembra che era, due fratelli, altri due fratelli oltre a lui erano altri tre radioamatori in famiglia, questo mi ha fatto vedere tutte le QSL, di tutti quelli che conosco i radioamatori nessuno ha le QSL che ha questo, ne mancano solo due country di tutto il mondo, quella Bouvet, quell'isola che sono andati dopo 30 anni, lui ce l'ha già, non c'ha, nel mondo ce l'avranno pochissime persone, ne manca solo la Corea e Peter Island, un'isola che nello vicino all'Oceania, che è sperduta, che non c'è nessuno, tutto il resto ce li ha, ma ce li ha perché li ho visti, non perché li ho sentito dire, me ne ha fatte vedere a uno, ma non fatte una volta, 3, 4, 5, lui è bravissimo in CV doppio, soprattutto fa CV doppio ed è micidiale, quando vai lì cosa, con quello che c'ha tu ti metti a ridere, ma cacchio, come fa lui con questa radio, un 101 della IAESU, delle anni 3, più un'antenna, un pezzo di filo, e quello ha collegato tutto il mondo. C'è chi si arrangia e chi riesce a fare più degli altri, magari anche la posizione è buona, ma è a Sassari. No, è vicino al mare, è a Sennuri, di lì, anche se lui è sassarese. Cappa. Ah, ho capito chi è. Sì. Una persona grande, di una certa età, non è un ragazzino, però questo mi dà grande ammirazione perché con niente riesce a fare cose che ce lo sogniamo noi, gente che ha mega antenne, lui lo vedi con un pezzo di filo, cosa, poi di quelli sempre attento, sa tutti praticanti del mondo, se tu gli dici Angola che cosa è il codice, lui te lo dice, gli dici Seychelles, tu questo te lo dice, oppure viceversa gli dai il codice e lui ti dice che cosa è una mente su quel campo lì, non ne ho conosciuto ancora a quei livelli. La passione ti porta a questo anche, no? Naturalmente bisogna avere anche testa, non è che li ricordi così. È una persona umile e disponibile soprattutto, una persona che quando chiedi, io sono un chiedone, sto sempre chiedendo, informa, ti dice tutto quello che ti può dire, ti aiuta, è veramente bravo. Vabbè, chiedere, informarsi, c'è sempre da imparare, no? Chiedere è una cosa lecita, perché magari è una cosa che tu non sai, poi chiedendo impari. Però purtroppo succede il contrario, chi sa, almeno chi è convinto di sapere, non chi sa, perché sa normalmente te le insegna le cose, te le spiega. Ci sono i cosiddetti sapientoni che sanno quasi niente, però se le tengono gelosamente coso per loro, non ti dicono. Per il mondo è bello perché vario, Robe, io se una cosa la so, sono lieto di spiegartela e dirti com'è, non sono geloso di nessuno, ma anzi. A me piace, se qualcuno mi chiede qualcosa che so, spiegarmela e farlo partecipo. A me mi hanno criticato tante volte in tutte le parti, dai. Però io dico, se uno sa delle informazioni bene, e qualcuno gliele chiede, naturalmente sono informazioni giuste, no? Facendo il medico e sono un estetista, per dire, come succede molte volte, uno che si legge un libro e poi magari è convinto di essere medico perché si ha letto l'enciclopedia medica. Se parliamo di informazioni giuste, dettagliate e veritiere soprattutto, perché c'è troppa gente disinformata, io molte volte parlo, mi confronto con certe persone e poi dite ma rase di zente, poi quando tocchi argomenti male di coso, per cui finiamolo lì il discorso. Però ci sono delle persone che sono convinte di sapere tanto e poi non sanno proprio niente e fate dei brutti figure. È meglio, se ne sai, dilla a qualcuno senza presunzione, almeno io la vedo così. A me, se a me mi chiedono qualche informazione del mio lavoro, per me è un orgoglio, vuol dire che posso, come si chiama, qualcuno come si chiama, lo accetta, però ci sono delle persone che la vedono come un senso di superiorità verso di me e dicono, ah no, il professore è entrato, mi dico, anziché avere l'umiltà di dire, aspetta, vediamo cosa sta dicendo. Tante volte succede, e succede ancora di più in bande radiomatoriali, perché ci sono i cosiddetti pseudo ingegneri che non sanno. Io ho visto fare delle discussioni confrontandosi con super ingegneri, gente nominata, e qualcuno si è intromesso per farci vedere il fighetto, l'hanno fatto stare zitto, dice ma cosa stai dicendo? Gente che è convinta che fa il fighetto perché si intende appena appena. Poi ci sono di quelli tipo Magnum, l'ingegnere della Magnum, Daniele Friniani, ha fatto stare zitto un po' di gente, quello è un mostro, è un guru nel suo campo, eppure qualche fighetto entra ogni tanto e si mette a fare nei raffronti, io secondo me qua là, io sono iscritto in dei forum dove c'è lui che parla, ma quando parla lui devi stare zitto e ascoltare, non sei all'altezza. E qualcuno ogni tanto, secondo me quello che hai fatto con l'amplificatore è sbagliato, perché quello, e là gli spiega tutto quanto, dice ma con che titolo ti permetti, dammi delle spiegazioni tu e poi io ti dico perché ho fatto così. E molte volte succede, ma nelle amatoriali succede quotidianamente, devi prendere già. È così, insomma, purtroppo sì. C'è gente che si crede superiore e poi non è nessuno, ma lasciamo perdere. Io quello che so dico, se non la so la cosa sto zitto. Già, la prima cosa è l'umiltà. Io ho conosciuto gente, ma no, che a me mi fanno non 10-0, 1000-0, e ti rendi conto quanto non ne sei, quanto sei ignorante, e cioè come che tu ti confronti con un giocatore di Serie A e tu hai giocato nelle quartiere tuo, facevi i tornei di calcetto. E così il rapporto, quando ci sono certe persone, e chi veramente ne sa, perché io ho seguito tante, non parlo solo di discussioni in campo amatoriale, parliamo di altre cose, di altri campi, e ti confronti, vai a ascoltare queste persone e tu dici, cacchio, ti rendi conto, ma io non so niente, io non sono nessuno, e magari tu sei convinto nel tuo piccolo, dice qualcosina so, poi senti questi signori qua e dici, ma io ancora no, devo ancora imparare, sono all'elementare, quelli sono all'università. Purtroppo poi ci sono quelli delle elementari che si credono professori universitari, e quando il giorno che si trovano a davanti uno di questi, fa brutta figura. Per cui ci vuole sempre umiltà, c'è sempre da imparare in ogni settore, tu lo saprai più di me, ma in tutti i settori c'è sempre da imparare. Vabbè, certo che sì. Ma io, Roberto, mi seguo anche su internet, carrozzieri, come aggiustare i paraurti. A me interessano queste cose, mi piacciono. Anche riguardo anche di Max, quando restaurano le macchine, mi piace vederle, capito? Mi piace interessarmi, poi magari non lo faccio, però intanto so che si potrebbe fare in quella maniera, capito? Certo, informarsi, io leggo continuamente, io sono tutti i giorni, tutte le notti prima di coricarmi, mi metto il cellulare e cerco su internet di tutto e di più, di qualunque argomento, se c'è poi qualcosa che magari non conosco e voglio riuscire a vedere di cosa si tratta, guardo, ma passo ore e ore, poi termino, infatti qualcuno dice, ma tu sei sempre cercando, faccio, io sono una persona, un posto di chiedere informazioni, come si dice, una persona veramente aperta, non mi chiudo nelle cose, tante cose, pure troppe molte volte, però mi piace sempre informarmi, cioè poi sono argomenti tecnici, guai. E anche io mi informo, però la notte sto a guardarmi, io mi interesso molto, non è che mi interesso, mi guardo questi live di paranormale, questi like di paranormale che danno, mi intrigano molto. Guarda, io in quell'argomento non entro nel merito, ho visto tante cose che rimani scioccato, per cui non ne parlo neanche, già nei propri ieri si è sentita una discussione, non ho voluto intervenire perché sono cose troppo grandi per la nostra mente. Mia madre diceva sempre, lasciateli in pace i morti che non vi stanno cercando, sono cose più grandi di noi. Guarda Gianni, io ho esperienze inimmaginabili, verificate, per cui quando si toccano quelle cose lasciamole perdere, perché entri in una cosa che è fuori dalla nostra mente. Ho capito, ma io guardo solo le live, non è che ci vado, questi vanno praticamente a fare dei sondaggi nelle case abbandonate, e vanno in asili, in strutture tipo ospedaliere abbandonate, capito? E parlano, l'altro giorno uno di questi si è dimenticato la protezione e si è preso praticamente, si è seduto in macchina con la tipa e dal sedile di dietro, tra un sedile e l'altro di quelli davanti si vedeva lo spirito. L'altro giorno, venerdì scorso, non so se l'hai letto l'informazione, c'era Ghost in Sassari e c'era il percorso già sold out, è andato subito sold out, lo devono ripetere, non mi ricordo qua, anzi oggi quando noi, forse era oggi mi pare, non la settimana, scorsa settimana 24 e oggi, adesso c'è questo percorso, le case cosiddette infestate, cose così, ti portano, poi c'è l'aperitivo, ti fanno andare in certi posti, c'è l'accompagnatore, la guida, e tipo, hanno subito venduto i biglietti, si pagava 5 euro, più se volevi o forse 10 euro, se volevi l'aperitivo, di benvenuto 5 euro. Non so se erano 40 posti o 46, subito, immediatamente li hanno tutti quanti occupati. No, ma questi sono dei gruppi formati già, non invitano gente, sono già dei gruppi formati, tu pensa che questo qua che è stato impossessato era già di notte tarda, gli hanno detto acqua benedetta ne hai, è entrata una media, gli ha detto sei acqua benedetta, buttati l'acqua benedetta addosso, e invece lui non aveva l'acqua benedetta, allora gli ha detto di andare fuori di un cimitero di modo che facesse il passaggio dal cimitero alla luce, lo cercava di ricondurlo alla luce, invece non so poi come è finita alle 4 di mattina, io poi non ce l'ho fatta più, mi seguo drumming. No, io preferisco non guardarne, già ti ripeto, ho avuto delle cose sia personali che di altre persone, lasciamo stare tutto così com'è, non è guardo di queste cose, che poi la notte magari nell'incorso non dormi, ti vengono pensieri strani, lasciamo perdere, per cui dico cambiamo anche argomento perché sono cose troppo delicate. Chiamiamo Gavino, se per caso si è svegliato o se stava mangiando. Gavino, se ci sei batti un colpo, tanto che un po' di gente ascoltando, lo sai quanta gente ascolta già, tu non hai idea, ma un be, perché mi arrivano i messaggi a me. Lo so, vabbè, perché non entrano, capito? C'è gente magari che non ha argomenti molte volte, c'è qualcuno che le piace ascoltare, ce ne sono tanti che la conosco anche di persona, che dicono no, mi piace ascoltare come fai tu, per dire come posso fare io, ma te ne vai ad ascoltare una radio o in HF o cosa del genere, una radio, una persona, un USO o cosa del genere. Se ti capita vai a 3643 dove ci sono persone con le palle quadrate, normalmente si trovano quasi tutte le sere, tra cui c'è questo famoso ingegnere Daniele Frignani di La Magnum Electronics, e quello quando ascolti quello devi solo stare zitto e aprire bene le orecchie, o se no cercati su YouTube se ti piace Magnum Electronics, oppure intervista Daniele Frignani di Magnum Electronics, e c'è la storia della telecomunicazione italiana, parliamo dagli anni 60 quando è stato lui, da cui si parla anche di 27, di amplificatori, e questo costruiva tutti gli amplificatori, gli accordatori eccetera eccetera, ha fatto di tutto di più, questo è conosciuto in tutto il mondo perché costruisce delle cose a livello mondiale, costruzioni a norme militari, cose indistruttibili. Tu guarda, cerca Daniele Frignani su YouTube e ti fa, dura l'intervista, dura quasi un'oretta, e si parla anche della 27, dei baracchini, di cose eccetera, di amplificatori che noi siamo convinti che siano bellissime, sono copiature, non vuole mai faccia nessuno, quello ti dice vita e miracoli di tutti quelli, dice, quando gli chiedi quello lì, no, quello l'ha copiato da noi, non ha niente da temere, quell'altro no, quello è buono, quello è una buona ditta, costruisce dei buoni amplificatori perché c'ha questo tipo di cose, e ti spiega tutto. Sì, io non avevo trovato uno sui 40 metri che ci aveva costruito l'alimentatore, e adesso dice che doveva costruirsi un amplificatore da 600 watt, 700 watt così, è un tipo che messa abbastanza, perché anche gli altri hanno detto che uno ha detto che ha visto l'alimentatore che ha costruito ed è un ingegno proprio, fatto benissimo. Guarda, questa frequenza qua, quella che ti ho detto io, 3643, ci sono i guru, diciamo, ce ne vanno proprio di lì, perché è una frequenza tipo il canale 10, non sono una frequenza monitor. E lì ci sono gente, prima di tutto che c'ha soldi, che c'è quest'altro che è lo stesso un cranio, però non è un ingegnere, non è, però c'ha i soldi, c'è una stazione, ti hai presente, c'è il video, io l'ho visto il video di questo qua, sono venuti dal Giappone per montare il suo impianto di traliccio, che è una cosa da paura, spaventoso, sono venute delle donne, bellissime ragazze tra l'altro, giapponesi, ne hanno montato nel mondo due, uno a Francoforte e uno a lui, questo c'ha una marea di soldi, tu devi vedere, 200.000 euro, l'ha pagato, dice l'ho pagato un prezzo ridicolo, lui ha detto, perché non so cosa costava tutto, perché si è dovuto pagare la trasferta di questi, sono stati una settimana per montarli l'impianto, ma tu devi cosa c'ha di antenne questo, una cosa, poi ne sa un me, nel senso che lui, se tu dici mi devo mettere questa antenna a 5 elementi o 3 elementi, no, già provata, metti questa perché quel tipo di antenna, e ti racconta tutto delle antenne, poi sta sempre facendo sperimentazione, e poi c'è Daniele Frignani che il genio del suo campo, delle telecomunicazioni, una persona che ha fatto di tutto e di più, dai lineari per auto, quelli classici tipo ZG, così così, però cose di un certo livello, sino ad arrivare alle cose grosse, i giocattoli grossi, e te devo dire, quando senti parlare a quelli ti appassioni. Vabbè, ti credo, anche perché parlano di cose anche di vecchia era, che costruivano prima, è una cosa interessante, dai. Io mi sono sempre piaciute queste cose del radio, io gioco 40 anni per frequenza, non ci sono poco. E già lo so, tu sei uno dei più anziani, non dico di età, come partecipazione, così anche Gianni Capi, lo stesso si dice, uno dei primi, Gio Maria, Giulio Dolaro probabilmente il più anziano in assoluto, ma ce ne sono persone che qualcuno c'è ancora, che sono 50 anni anche di più, che trasmettono qua. E anche Giulio più o meno per lo stesso periodo mio che è entrato. Giulio l'ha detto, lui attualmente e Gio Maria sono i più anziani, e anche sono stati entrando Capri 2, lo stesso uno degli anni 70, c'era, quando ancora era pirati, nel senso non c'erano le autorizzazioni, le concessioni, ed era tutto abusivo, però stava iniziando l'albore della banda cittadina, dai, perché poi si andava di nascosto negli anni 70, primi anni 70, dopodiché hanno dato delle normative per cui hanno liberalizzato. allora lui, a lui gliel'ha detto Angelo Shadow 2 di entrare, l'ha convinto, non so se l'ha fatto l'apparecchio, non mi ricordo. Io Angelo lo frequentavo già, lui aveva piazzato da poco l'antenna quando io sono entrato, c'aveva l'antenna piazzata da poco, c'era lui, Manuel che frequentavo e uno che si chiamava Diaburic, che però non era Walter, era uno del monte, che mi ha venduto un apparecchio tre canali, un watt e mezzo, la Fayette, un portatile, perché dice che non riusciva a usarlo. E cosa avevano fatto? Li avevano invertiti i quarzi, lui li aveva messi i quarzi ma li aveva invertiti, li abbiamo messi a posto, cazzo, l'apparecchio usciva benissimo. E poi prima con pochi watt andava da tutte le parti, non c'era inquinamento elettromagnetico come adesso, cellulari, televisioni private, radio private, non esistevano ancora, per cui con mezzo watt ne facevi di strada una gran plane e andavi da tutte le parti. Mentre lo stesso molto vecchio, che poi dicono che è morto, almeno tutti quelli che ho sentito, parlavamo di gente, gli alburi della CB a Sassari, Rosa Verde, non so se tu l'hai conosciuto. Certo che l'ho conosciuto. Lui entrava e diceva, parecchi per la Rosa Verde, gappa. Ma cos'era, un tecnico questo? Questo qui era laureato, ma poi aveva mollato la moglie e era finito come un barbone. Viveva in un magazzino, c'aveva un dipolo dentro il magazzino, ci stendeva anche la roba. E una lambretta con la Rosa Verde, per quello che si chiama Rosa Verde. Una lambretta che va, la Rosa Verde è il coso del clacson, dove suona il clacson, no? E ce l'aveva lì davanti. E per quello che si chiama Rosa Verde, non aveva manco luce, usciva con la batteria e c'aveva un Cattarina 2, me lo ricordo bene. Ma dov'era? In Vele San Francesco questo per caso? No, abitava in una traversa del corso. E chi è quello che abitava in Viale San Francesco che c'aveva il laboratorio? Quello è Panther, mi batte. Come? No, non è Panther, quello è l'amico di Capri 2. Quello è l'amico di Capri 2, non è Rosa Verde quindi? No, Rosa Verde era un embriagone, stava sempre bevendo birra, diceva so con la mia bionda. Io all'inizio pensavo che avesse una ragazza bionda, invece la bionda era la birra. Lui sì, la Perone, la mia bionda. Aspetta, lasciamo un secondino in bianco, se vuole entrare qualcuno se no riprende. Avanti su 10 vuole entrare. Però vale, oggi c'è il QRM bassino, perché normalmente qua in questa zona è sempre alto, qua c'è 5, là. Siamo nei valori più bassi in assoluto. Riprendi già. E l'avevano anche denunciato perché si era attaccato alla luce di una casa vicino, aveva preso la corrente da lì e se l'aveva messa a casa sua. E in più si aveva fatto una cosa, nella porta ci aveva messo il filo elettrico, di modo che se tu toccavi la porta ti pigliavi la scossa, perché andavano a rompere le scatole, allora ha fatto questo lavoro qua. Sano di gabbo era chi, no? E tu c'era presente, era ricciolino, bassottino, lo trovavi sulla Moody Moody con lo zaino in spalla, col cappotto, in piena estate, col cappotto di quelli pesanti, sai quelli che si usavano prima militari, quelli grigi pesanti, in piena estate, camminando sul bordo della strada a gotto di pippa. E viveva la barbona questa? Sì, ma era un cranio alla zona industriale, mi pare che ci aveva preso una laurea in ingegneria, roba del genere. Eppure, vedi, ha fatto una fine brutta dopo che si è mollato con la moglie, ha fatto una fine brutta. Purtroppo se sei debole, trovi male qualche situazione, inizi a bere cose e finisci male, molte la finiscono così, purtroppo era così la vita. Il tecnico era anche quello Emanuele, no? O sbaglio, dove c'era il laboratorio quello? Chi? Emanuele Pozzo Pilato, c'era il laboratorio quello? Sì, ma i televisori, non i baracchini. Qualche baracchino se lo usava lui, non ci stava per lui, ma non aggiustava baracchini, faceva i televisori, mi sa. Vabbè, ma qualcosa sapeva, non era un incompetente, era? No. Ce l'aveva lì a Pietromicca, vedete dove c'è la macelleria, lì vicino, dove c'è quella macelleria che fanno. E più o meno una zona. E cosa? Adriano lo stesso aveva un laboratorio o sbaglio? Adriano l'ha sempre fatto in casa, quanto so io. Ah, non aveva laboratorio? Ma che sappia io, no? Io sapevo che lavorava in casa. Ma era un tecnico o solo un appassionato? No, un appassionato, magari anche studiato, però loro c'erano l'officina, capito? Lui andava in officina, però a quanto so io ha anche studiato, ha giusto a computer, fa queste cose qua. Fate cosa capita, faccio gli amplificatori pure, no, li modificava, allora faccio. E tutto, ti allinea anche Kenwood, tutto qua. Ah, ma no, non l'ho mai conosciuto di persona, l'altro giorno l'ho risentito, mi pare che era da Natalino, se non sbaglio, perché era amico di Natalino, e poi tanti anni fa, molte volte di sera entrava lui e tirava fuori potenze esagerate. Diciamo che ci arrangiamo con bene, dai. Tra ecco lo stesso Franco Delta 1 che c'era in via Grazia Vele, da ogni tanto stava faceva qualche piccolo lineare, attaccava e sentivi questo rumore di valvo. Sì, Delta 1, con lui che me lo ricordo. Addirittura ha fatto servizio ambulanza con me, Delta 1. Ci siamo sentiti per telefono, siccome ho regalato una sua regalata, abbiamo fatto scambio con Danilo. Lui mi ha dato uno strumento e gli ho regalato, scambiato la cubica che aveva costruito tanti anni fa, Franco Delta 1 me l'aveva data e ce l'avevo sempre da parte. Tutto il discorso con Danilo, che l'ha messa in funzione, ma tu hai detto roba di collegamenti, mi ha fatto vedere i video, la paura, e poi col motore, si è messo un piccolo motore, mi pare che avevo dato io bustato qualcosa, uno di quei piccoli rotturi, ma tu hai detto cosa ha collegato con quell'antenna, spaventosa, cioè non te lo immagini. Nel 26 perché è molto grande, è ingombrante, però cavolo, una cubica autocostruita da coso, quello ci aveva esatto dell'antenna, se l'aveva tarata bene, ma ha fatto dei bellissimi collegamenti Danilo, e lei è anche una persona abbastanza preparata, stavo a prendere la patente e poi ha mollato, infatti ha detto cavolo, mi dispiace, perché quando trovi persone appassionate come Gavino stesso è anche un piacere, perché molte persone provano così per prendere la patente però non gliela futti nulla, per dire ogni tanto entrano, come questi nuovi, molti nuovi patentati mai sentiti, forse uno o due ne ho sentito, la maggior parte non li ho mai sentiti, non facevano neanche 27, sarebbe dato la patente così per gusto. E magari quelli che la volevano non sono riusciti a prendersela. E infatti succede così, qualcuno è andato così, tanto per coso, perché c'erano un paio che neanche, che su io non sono mai stati neanche CB, forse uno SWL è stato così a livello, però a livello così no, saltuario, no, fisso, dai, però sono passati. Vuol dire che hanno studiato o che avevano, non lo so, hanno trovato, diciamo, le domande giuste, la cartella facile, diciamo, come succede alla scuola guida, che ti capita quella facile oppure quella difficile, e a questo di fortuna. Allora, uno di questi, non per dire di parlare in particolare, l'altro che ha detto no, io ci sto provando, perché io sono, mi avevano chiamato per fare, quando c'era una lezione, mi avevano chiamato, mi ha detto vieni così dici, dai le tue informazioni, se vuoi dire qualcosa, e sono stato un paio di un'ora e mezzo di lì, stavamo un po' discutendo e si facevano delle domande, ma c'era gente proprio, vero assoluto, tra cui questo, diceva io sto venendo, ma a te, invece c'è passato, mi ha detto guarda, lo dico che ha detto io sono stato fortunato, mi hanno chiesto quelle pochissime cose che sapevo, le ho dette, una l'ho sbagliata, però con la somma delle cose giuste sono passato, magari c'erano altre persone molto molto più preparate, le hanno andate male, tipo Natalino magari, gli hanno chiesto delle domande un pochettino più complicate e si è intrippato. Eppure dice che Natalino nel primo del corso, che le sapeva un bel. C'era, quando sono andato io c'era Natalino infatti, e c'erano altri, c'era un po' fighettino che faceva discorsi, facevi tu devi stringere troppo, stai parlando troppo, cioè ti faceva una domanda per dire o sì o no, devo entrare a fare tutti i giri, però quello poi è passato, buon per lui. Poi c'era un altro discretamente preparato, ma c'era gente che proprio, domande elementari proprio, no? Cosa vuoi a fare? E non ci andava neanche. Visto, c'è che è fortunato, passano sempre oggi. Ho capito che ma non è di Sassari. No, guarda, lo conosco in persona, è una grandissima persona, educatissima, è un piacere parlare. Però lui ha detto che ha detto, io me la sto tentando, voglio fare, perché lo sai cosa è brutto già. quando non sei abituato a studiare, sei anni e anni, ma se tu sei uno studente, Riccardino, poi lui fa 10 a 0 a tutti perché lui studia continuamente, la mente è aperta, allenata, tu, poi ci vai tu, ci vado io, e prima di immagazzinare le informazioni ci metti più tempo, devi rileggere tante volte, poi dici poi non ho capito niente, mi sono dimenticato di tutto, e quello è importante. Anche io all'inizio, non dico questa volta vabbè, era diverso, però la prima volta, gli anni quando avevo fatto nel 2012, prima del 2012, all'inizio era difficoltoso metterti a immagazzinare, a memorizzare le cose, poi allora io prendevo appunti, io studio con gli appunti, tutto quello che devo studiare me lo faccio in una brutta, dai, e mi scrivo le cose, e poi mi rileggo quelle cose lì, e poi le cose che sono facili per dire, quelle che ormai le ho memorizzate non le studio più, studio solo le cose che ho difficoltà, dai. E così forse è stato un buon metodo e sono riuscito a passare. Infatti, e vabbè, poi sì, è vero che la mente allenata per studiare è una cosa diversa, c'è gente che magari non riesce più a prendere, non si concentra più, non riesce più a studiare cose. Io proprio, a me non mi interessava, non ci ho voluto manco provare perché non mi è mai interessato, mi piace stare qua, farmi quattro chiacchiere, per me deve essere un relax, no? Troppo impegnativo le cose, diciamo, della radioamatoriali, mettere antenne, ci vogliono soldi per pagare apparecchi nuovi, eccetera, eccetera, no, no. Assolutamente, non voglio rispendere tutti i soldi che ho speso tanti anni. Non sarei stato miliardario, ma un bel po' di milioni da parte che avrei avuto. No, io quello che ho adesso, a parte forse due o tre, no, vabbè, forse un amplificatore, un'altra radio grossa, ce l'avevo già prima quando riuscivi, quasi tutto, il 90% ce l'avevo tutto, adesso ho aggiunto qualcosa di più performante, una radio un pochettino più moderna, ho messo i monitor, ho messo i programmi di coso per fare tante operazioni, eccetera. Però già quando riuscivi, non per vantarmi, ero abbastanza attrezzato io, ben pochi, in 27 ce n'avevo con l'attrezzatura che avevo io, dai. Non per falsa modestia, dai. Poi cambiamo discorso, ieri è passato Riccardino a trovarmi, è cresciuto tanto, ero qualche mese che non lo vedevo, diciamo, dalla primavera scorsa, ho detto cavolo, bello, si è allungato parecchio, dimagrito, però è alto, è abbastanza alto. E anche la voce ha cambiato, io lo stavo riconoscendo. Infatti l'ho detto l'altro giorno, che avevo ascoltato la discussione nel momento che stavate chiudendo, che c'eri tu e lui, l'ho detto che ho sentito di subito, a cui ero da un'altra parte, stavo per rientrare, come sono entrato eravate andati via, perché volevo salutarlo, perché ho detto Riccardi quando vuoi vieni, perché lui dice ogni tanto ascolta, eccetera, diciamo un po' di timidezza magari, come sono tutti i ragazzini, però è troppo simpatico, ho detto io sono il padrino, mi sono considerato il padrino, lui mi dice sei il mio padrino, io e Fabrizio quelli che abbiamo accudito, e poi tutti gli altri l'hanno voluto bene, ho detto tu ti sei fatto voler bene a tutti, a parte che sei un bravo ragazzo, educazione, hai tantissima passione, però purtroppo qualcuno l'ha incolpato di tante cose, lui era forse un po' risentito di questo, però ho detto non ti preoccupare che tutti ti vogliono bene, entra quando vuoi. Diciamo bisogna anche ammirare la buona volontà che ha avuto, in poco tempo ha imparato tutto il gergo, ne stavamo parlando, la stavamo ripassando insieme, come si dice questo, come si dice l'altro, lui sapeva tutto, aveva già imparato, vuol dire che si è messo d'impegno perché le piaceva e bisognava coltivare questa cosa invece di cercare di respingerlo. Ma lo so benissimo, allora tieni presente che Riccardino non aveva quasi, non aveva neanche 13 anni quando è entrato, ne aveva 12 e quasi 13, anche se lui diceva ne aveva di più perché un po' si vergognava, ma lui prendeva appunti, se tu andavi a casa sua, io sono andato diverse volte a casa sua dove c'era la stazione, ne aveva due, una specie di dependance, chiamiamola una fane in legno, eccetera, quasi all'aperto, e poi c'era dentro casa, e lui c'era un quaderno e scriveva cosa vuol dire QRZ, QRT, parole così, prendeva gli appunti e poi le diceva, poi ascoltava tanto, lui era proprio appassionato, ma veramente appassionato, poi un ragazzino di 12 anni, magari qualcuno dice beh con gli adulti non ci fa niente, però ci stava perché c'era la mascotte. Ma se uno è adulto, ha avuto figli, deve saperle anche prendere le persone, anche se è un ragazzino e vuole imparare, perché non farlo imparare, se ha la passione, poi coltivare, farli coltivare questa passione e andare avanti. E vabbè, diciamo che Riccardino è maturato anche prima del tempo, perché forse anche i genitori l'hanno impegnato in diverse cose, c'è cavalli, c'è tutte queste cose qua, quindi è diventato più maturo prima, capito? Certo che sì, ma lui a scuola, raccontava di scuola, lui è come che tu c'è, cioè, un ragazzo elementare, l'altro sta con uno delle medie, lui era già di un'altra categoria, lo vedevi. Poi parlando anche con noi, la cosa bella che dava anche un senso di educazione durante il QSO, non ne sentivi più discorsi di porcaccioni, di cose, magari qualche parolaccia poteva scappare, però tutti si regolavano anche come linguaggio, e quella è stata una bella cosa secondo me, non sentivi cose sporche, perché in certi momenti, mamma mia, si iniziavano a dire cose brutte, perché la gente se ne rende conto finché sei tu e lui e siete in un posto dove non ti sente nessuno, ma quando sei in frequenza c'è gente che ascolta, magari ci sei tu, tua figlia, tua nipote e cosa, e sentono questo raccontando di quello che ha fatto, di cosa ha fatto con quella tipa, e sono cose brutte, non mi piacciono a me, e se c'è famiglia soprattutto qualcuno dice ma cos'è, una cosa di porcaccione, ognuno, diciamo, è come io ho avuto un'educazione particolare, mio padre ci ha sempre educato a casa a rispettare, a fare, diciamo mio padre era un uomo anche di chiesa, ci faceva fare la preghiera prima di mangiare, eccetera eccetera, ci ha dato un'educazione diversa, capito? Io parlo